Ciao muso, come stai? Hai combinato guai? Io avevo voglia, sai, di coccolarti un po', di averti qui con me. Non dirmi che tu hai un'altra cotta ormai. No, non è possibile. Forza, ripetilo, sono l'unica per te. È tardi, ma so che tu non dormi se io non ti telefono un po'. Se non parli con me, amore stupido mio, come vedi son qua. Sto chiamandoti dall'autostrada, volevo sentirmi con te. Hai fatto il bravo, o no? Ti, mi hai pensato un po'. Tu mi sei mancato, sai. Mi vien da piangere stasera. Che voce hai? Se hai problemi, dimmelo, dai. Se tu hai bisogno di me, mollo tutto. E voglia che ho di abbracciarti, tirarti i capelli e tenerti nel letto con me. Ti prego, cucciolo mio, no, tu non crescere mai. Il mio angelo.